vogliamo far entrare la voce delle donne dentro ai processi come questi, ai processi per femminicidio. Siamo qui per manifestare la nostra vicinanza e sorellanza ad Alessandra Matteuzzi, barbaramente uccisa, ma vogliamo che sia resa giustizia nelle aule dei tribunali. Vogliamo anche occupare uno spazio pubblico, rinnovare l'informazione che i centri antiviolenza ci sono, le associazioni delle donne femminili e femministe ci sono in questa città e lavorano per contrastare 365 giorni all'anno la violenza di genere nei confronti delle donne, che non è una emergenza ma è un fatto strutturale. È per questo che noi insieme, tutti i centri antiviolenza di Bologna, hanno deciso di costituirsi parte civile per mandare un messaggio forte alle donne che subiscono violenza, ma anche alla città e direi anche alle istituzioni e alla politica. Dice spesso nei casi di femminicidio che le vittime devono denunciare, ma Alessandra Matteuzzi aveva denunciato. Secondo voi cosa si dovrebbe fare in più? Cioè, quali sono le vere soluzioni per cercare di prevenire questo tipo di situazioni? Ci sono delle questioni strutturali che occorre affrontare. C'è il problema degli strumenti a disposizione che a volte trovano degli ostacoli e quindi tante si sono chieste perché il signor Padovani non aveva il braccialetto elettronico. Ecco, quindi ci sono delle cose che devono essere attuate e continuano a rimanere così, solo delle enunciazioni e basta. Quindi tutto quello che noi in questi anni abbiamo chiesto, tutti i confronti che abbiamo fatto, i tavoli con cui ci confrontiamo anche con le istituzioni, bisogna che le cose funzionino, altrimenti troviamo queste situazioni. Poi c'è un fatto culturale grossissimo in questo paese e bisogna che le donne abbiano veramente quel ruolo che a loro spetta, che a noi spetta nella società, e ancora c'è questo gap grosso. Aggiungerei solo due cose: spetta anche agli uomini che non si riconoscono in questo modello di mascolinità prendere la parola e lavorare su loro stessi, sul loro genere, per affermare dei modelli diversi che non si basino sulla sopraffazione, sul sentirsi più forte in un ruolo di potere rispetto alle donne, ai loro compagni, ai loro mogli. E l'altra cosa è che è necessario e fondamentale un lavoro di rete, perché nessuna realtà da sola può affrontare questo tema complesso, per cui è importante che centri antiviolenza, servizi sociali, forze dell'ordine, psicologi e psicologhe, avvocate e avvocati lavorino in rete, perché solo così, come dire, ci sono più sguardi e la rete può sostenere le donne con questi vissuti di violenza.